Silvio, Silvio, al tuo posto c'è Monti. Silvio, Silvio, era meglio quando c'eri tu. Aci piglia, c'è uno spread che è altissimo. Ma Silvio chi? Silvio chi? Silvio Orlando. Ah, bravo attore. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Credo asilo. Ah, Drago, senti che aria frizzantina qui nel Canton Vallese. Sai cosa nasce immerso in questo universo di purezza e genuinità? Ma non saprei, forse il Wunderwaffer? Giusto! Annusa! Annusa ancora! Si sente il profumo del dente di leone! Senti di là, la violetta! E di qua, il non ti scordar di me! Ma veramente, Kappa, io sento soltanto odore di stallatico! Ma ecco! Si scorge sopra la cima del monte il mandriano con le sue mucche! Sì, però Kappa, qui ci allontaniamo poi dal discorso del Wunderwaffer. Lo so. Vabbè, allora se chiamate adesso e ordinate 10 scatole di Wunderwaffer, vi diamo, compreso nel prezzo, anche il mandriano. Cosa c'entra il mandriano col Wunderwaffer? Petar il mandriano. Punto, cosa c'entra? Vabbè, fatti venire in mente qualcosa tu, Drago, non so. Possiamo mica perdere la vita dietro le radiovendite del Wafer, cioè. Sento, il mandriano, lo stallatico, ma che è pestata la merda, eh? Please pass the milk, please. Please pass the milk, please. Please pass the milk, please. Il problema, Kappa, col Wunderwaffer è che manca il gadget. Sì, manca il budget. No, il gadget, ma manca la cosa in più. C'è solo la merendina, scusa. Beh, ho capito, ma è una merendina, Drago. È una merendina, ma non si può vendere solo il prodotto il giorno d'oggi. Se mettessimo un regalino in ogni confezione, tipo l'Happy Meal di McDonald's, i bambini farebbero i capricci coi genitori per farselo comprare. Adesso fanno i capricci se glielo compri il Wunderwaffer. Sì, però bisogna stare attenti alla Fundação para Proteção e Defesa do Consumidor. La Fundação para Proteção e Defesa do Consumidor. Sì, tiene anche la voce tutta rotta. La Proteção della Fundação. In Brasile ha fatto un multone a McDonald's proprio per via del regalino dell'Happy Meal, capito? Sì, quindi attenzione alla Fundação para Proteção e Defesa do Consumidor. Ma non ho capito qual è il problemino del regalino. Ci sono 1,3 milioni di euro di problemi con il regalino. Quindi un problemone. Ho capito il multone, però perché gli hanno fatto la perché multa? Perché il regalino è accompagnato da un pasto e il pasto non è sano. Non e è i bambini sano. Per avere il regalino mangiano anche un sacco di schifezze non sane, per cui è intervenuta la Fundação para Proteção e Defesa do Consumidor a sistemare la faccenda. A sistemare. E vabbè, c'era l'Happy Meal, ho capito, però questo è successo in Brasile, Kappa. Non è successo qui, non abbiamo nulla da temere. Fundação a Defesa do Consumidor. Ecco, non ci fai paura, Fundação. A Fundação para Proteção a Defesa do Consumidor. Sono completamente innocentato perché il Wunderwaffer è svizzero. Noi siamo italiani. Chi se ne frega dei brasiliani? E poi il Wunderwaffer non è un cibo schifezza, è una sanissima merendina abbastanza naturale. Abbastanza? Sì, dai, tutto sommato. Oh consumidor! Oh consumidor! Ti dico solo una cosa, Università di Adelaide. Di chi? Adelaide. Ah, tipo, Adelaide, vieni a pensare a me. Viene con me. No. Sta tornando. Chi è? No, è Depisco. Ah, ok. Credo. Me li confondo. Comunque, sempre. Sta tornando di gran moda. Adesso che Ioris è diventato amico di Alberto, ha portato Pino un Daniele, po' di. Tutto quindi, Adelaide. No, Adelaide è una città, non è una donna, non è nemmeno Pino Daniele. Dove? È una città in Australia, credo. In Australia. E poi ti dico un'altra cosa. Oltre a Università di Adelaide, ti dico Duke University. Una felpa, come? No, è una università che sta. Io non ho mai sentito nominare. Sta in North Carolina. Università di felpe. Cioè, ma perché? Esiste solo perché solo fa le felpe, no, capito? Vabbè, ho capito, è una vera università, capito? Vabbè. Queste due università hanno scoperto che se un topolino appena nato non è curato e accudito da mamma topo, piccolo, da adulto diventerà tossicodipendente. Questo, quindi Attenzione. Attenzione, ma metto qui hanno fatto una ricerca sulla droga. Sì. E l'hanno fatto sotto l'effetto di droga. Ma però no, ma la stessa che provavano sui topi e dice: ma già che ci siamo, ha tutto senso. Qui ad Adelaide non c'è mai niente da fare. No, non era senso, così. Capo. Ma scusa, ma come fa un topolino a diventare tossicodipendente? Ma, poi ma come fa un topo a diventare tossicodipendente? Drago, non è che normalmente un topo nella sua vita incontra delle occasioni per cui diventa tossicodipendente, come noi umani. Noi umani. Noi. Però la ricerca l'hanno fatta in modo che i topi conoscessero gli effetti della morfina, l'hanno adescati. No? C'è stato uno spacciatore topo che all'angolo del labirinto dove sono chiusi ha venduto la morfina. Qualcosa. Lo spaccino, come si dice. Qualcosa, c'è della cosa buona. Vuoi del buono, cosa buono? Perché sai, i topi non è che sanno. Sanno benissimo di cosa si parla. Sì, la morfina. Ecco. Quindi la questione è che probabilmente se fai lo stesso esperimento sugli esseri umani ci sarebbero gli stessi risultati. E invece noi, sai, umani abbiamo l'opzione di drogarci per il resto della vita. Ce l'abbiamo e come? Quindi praticamente, scusa, riassumiamo perché non ho capito già più niente. Sarà per l'effetto della droga. Comunque, coccole della mamma, no droga. No droga. Mamma anaffettiva, droga. Bravo, proprio così. Quindi la mamma di Kurt Cobain, per esempio. Di chi lo sa, lì bisognerebbe la mamma di Vasco Rossi, per esempio. Però guarda, non è una teoria valida nei due sensi. Cioè, non è che se uno si strafa, allora è automatico che la mamma non l'abbia coccolato. Cioè, una cosa... Ma chi lo dice? Adelaide. Lo dice il buon senso. Adelaide. Le cause di una dipendenza sono innumerevoli. Sì. Anche se Adelaide ti lascia, magari tu sei triste. No? Certo. Beh. Però da oggi sappiamo, puoi dire, che l'affetto della mamma può agire da deterrente per l'uso futuro di droghe. Oh, quindi, bene. Con questo chiudiamo il nostro angolo della scienza che piace tanto a Drago, ma che non ha mai rivelato niente che già non sapessimo. Mi dispiace, ma la scienza. Sì, Drago, mettiamo un pezzo, dai, non so, facciamo. Sì, anzi, un omaggio al simbolo di tutti i bambini maltrattati dai genitori e finiti nel tunnel della droga. Nel tunnel. Ma nessuno capisce. Tunnel. Tunnel. Il massimo può dire tunnel. Tunnel. Tunnel. Michael Jackson. Sono i bull dei BTP che vanno su, può tornare giù. La borsa, sai, è un luna park, ma tanto ormai siamo quasi al crack. Lo spread cos'è che vuole? Dow Jones, lo spread che sale. Se l'euro è un flop, vedrai che poi questo default ci tocca a noi. Se il debito di tutti, perché paghiamo noi? Super Mario, dove sei? Super Mario, cosa fai per questo spread? Lo spread, c'è lo spread, siamo tutti in red, per lo spread è troppo sad, che sad. Questo spread, si mettesse un po' la bici e a stampare nuovo cash, lo spread. Soldi, ma tu non ne hai, tu sei povero. Appunto, prestami 50 euro, Da Facebook continuano a giungere continui apprezzamenti, continui. Che fanno giungere quindi un apprezzamento complessivo del nostro snack svizzero preferito. Sì. Marco scrive: la mattina mi sveglio e prima di andare al lavoro mangio Wunderwaffer. A pranzo mangio Wunderwaffer, a merenda mangio Wunderwaffer e a cena Wunderwaffer. E sono molto felice. Forse voleva suggerire un testo per una pubblicità, sarebbe molto efficace, no? Vuol dire, è abbastanza svizzera come cosa. Sì, svizzera. Ebbene, cosa dici? È tutta chiara, no? Si sveglia e mangia. E mangia. Poi va in poi ufficio, va di... mangia. Lavoro, ufficio, mangia. Sì. Mangia, mangia. Mangia. Fatti gli esami del colesterolo però, Marco, Wunderwaffer. Vuoi uno snack per il break? Senti che in italiano fa rima, potrebbe andare bene. Perché in inglese non farebbe rima, perché snack e break non fanno rima. Invece snack e break, sì. Quindi niente. Anche crack. Cucu! Wunderwaffer.